Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Amisnet. Un saluto dalla redazione di Mediaset a chi ci sta ascoltando. Nella mezz'ora di oggi e nella prossima puntata cercheremo di affrontare lo spinoso nodo dell'informazione, delle nuove forme dei media, oggi in particolare analizzando nello specifico l'attualissimo fenomeno della Free Press, ossia dei quotidiani gratuiti, e del loro impatto con i lettori consumatori di questi giornali. Ma soprattutto quanto arrivano a modificare la percezione della realtà dell'oggi di uno dei tanti milioni di utenti che quotidianamente se ne cibano, e come questo tipo di media di fatto influisca sul controllo e sull'orientamento delle scelte delle popolazioni. La prossima settimana chiuderemo questo ciclo provando ad analizzare attraverso l'ausilio di alcuni autori quali Chomsky, Pasolini ed altri la cultura di massa e i media in generale. Nel corso della puntata di oggi avremo anche un contributo telefonico. Dagli studi di Amisnet, Cristiano alla voce e Andrea alla regia. Le cose non hanno senso. Perché mi avete dato la possibilità di pensare e di... Non è giusto questo. Che necessità c'è di pensare? Non mi volevo ribellare. Non io, almeno. Siete stato voi a darmi questa mano per agire. Voi mi avete dato il pensiero. Io stavo bene come stavo. Voglio tornare indietro. Io posso ricominciare tutto da capo. Io posso cambiare. Io posso... Aiutatemi, vi prego. Io ho bisogno di rientrare nella normalità. La scena tipica è quella di ogni giorno sui mezzi pubblici che accompagnano milioni di persone alla loro rituale sede di lavoro nelle città più grandi, non solo in Europa ma in generale nell'Occidente industrializzato. Migliaia di persone si accaparrano le edizioni giornaliere di quotidiani gratuiti. Metro è quello più universalmente conosciuto, ma da stato a stato ci sono edizioni diverse nel nome ma identiche nel concetto. Noi conosciamo Leggo, City, recentemente anche l'edizione pomeridiana serale di 24 ore di Epolis, che vengono appositamente questi quotidiani collocati appunto in appositi contenitori o distribuiti a mano. Leggo, di Caltagirone, City, di RCS, Metro, il più grande editoriale svedese a cui fa capo Metro gratuito del Metro International. Il primo a uscire, il 3 luglio del 2000 a Roma, fu appunto Metro. E appunto 24 ore, giornale gratuito della Confindustria. Proseguono il loro enorme sviluppo alla conquista della penisola. Ma di cosa vivono questi quotidiani gratuiti? Vivono essenzialmente di pubblicità, pubblicità che spesso ne invade le pagine, come potrebbe altrimenti essere un'altra cosa, evidentemente. Spesso un terzo delle pagine di questi quotidiani inneggiano alle richieste di credito per i consumatori, un po' il business del momento. Abbiamo in linea con noi Attilio è un giovane ricercatore della Facoltà di Scienze delle Comunicazioni, in particolare si occupa di teorie tecniche della comunicazione di massa, ma non solo, è anche un ghostwriter, anche un curatore di programmi televisivi. Allora, Attilio, innanzitutto ti ringraziamo di essere con noi. Grazie a voi, ciao a tutti. Ok, ciao. Appunto, noi stavamo parlando della Free Press, questa nuova tendenza di quotidiani gratuiti che tutti conoscono e che si trovano in enorme quantità. Dammi innanzitutto un tuo giudizio su questa nuova forma di media. Ma come dicevi tu un attimo fa, nascono innanzitutto come veicolo di informazioni pubblicitarie, e soprattutto perché è come una serie di volantini di pubblicità messi in mano ad una persona, soprattutto nei punti di attesa o durante i viaggi sui mezzi pubblici. E permettono ad un ipotetico lettore di leggere una piccola notizia contornata da enormi pubblicità. Quindi fondamentalmente nascono per questo motivo, ma a mio parere nascono fondamentalmente per la necessità da parte del dominio di informare, cioè di formare una classe dominata. Ok, passiamo brevemente a una ricerca dell'Eurisco che dice che quello dei quotidiani gratuiti è un fenomeno che si conferma sempre più come una realtà, e questa è la sintesi dello studio illustrato da Remo Lucchi, amministratore delegato di Eurisco, che ha compiuto la ricerca per conto degli editori e dei concessionari di pubblicità dei tre grandi quotidiani Siti, Leggo e Metro. Sono circa 1.738.000 i lettori di almeno uno dei quotidiani gratuiti nel giorno medio, con un lieve incremento stimato in circa 100.000 unità, erano circa poco più di 1.600.000 rispetto alla medesima ricerca compiuta lo scorso anno, e la crescita è stata definita tendenziale dai ricercatori, che hanno comunque spiegato che il fenomeno è importante in termini qualitativi. I prodotti culturali di questi giornali sono ibridi, in cui si mescolano linguaggi diversi secondo il gusto tardo moderno per il collage. Questo da una tesi di laurea disponibile in rete di Nicole Mazzeo, che aggiunge anche che la Free Press, Siti, Metro e Leggo sono i nuovi astri della galassia Gutenberg fra web e TV. Questo è il titolo della tesi, che analizza gli elementi distintivi dei tre quotidiani, focalizzando l'attenzione soprattutto sull'ipotesi che essi siano prodotto e specchio della realtà multiforme del giornalismo contemporaneo al convergere dei tre canali di informazione, internet, stampa e TV, campo privilegiato per la sperimentazione. Allora, Attilio, parlavamo appunto poc'anzi della sperimentazione. Sperimentazione, tu prima hai detto che questi quotidiani vengono posti in una, come dire, in momenti e in luoghi strategici. Questo con la sperimentazione, o comunque con questa nuova strategia, che cosa c'entra secondo te? In che senso con questa? Ma la strategia credo che fondamentalmente sia la stessa che caratterizza un po' il modo di vivere contemporaneo. È la notizia che viene a ricercare te, piuttosto che tu, lettore, spinto dalla tua curiosità, tu lettore, spettatore, spinto dalla tua curiosità, vai a ricercare ciò che ti interessa. Loro ti portano quello che a te interessa, ponendo il paradosso che sia tu a voler sapere quelle cose, certo, che loro stessi ti portano. Certo, quindi anche la novità mediatica della Free Press rappresenta un nuovo fenomeno culturale, di fatto. Ma più che una novità mediatica, credo che esprima la fine dell'utopia borghese dell'informazione e della libera circolazione delle notizie, una fine che avviene con l'avvento della televisione, il mito del quotidiano come forma di apprendimento e di conoscenza legato soprattutto alle masse di sinistra. Il quotidiano o il giornale è una delle prime forme di espressione anche del movimento storico rivoluzionario, comunista, anarchico dell'Ottocento. Certo. Si dice pure che questi nuovi media, che poi non sono nuovi chiaramente, è soltanto il modo di distribuirli e che comunque non hanno un prezzo, anche se abbiamo visto che rientrano dalla pubblicità, che appunto che questi free papers rappresentano uno dei prodotti più originali del cerchio d'effetto dei nuovi media, incarnando un processo di adeguamento dei media a stampa ai nuovi linguaggi dell'informazione. E che quindi, qualora la loro diffusione dovesse espandersi sensibilmente, i quotidiani gratuiti segnerebbero la testimonianza scritta del passaggio ad una nuova realtà mediatica improntata all'ipertestualità digitale, di cui è partecipe una fascia ristretta della popolazione, prevalentemente giovane, ma che già possiede la propria forza culturale nell'immaginario socialmente condiviso di un mondo comunque globale ed informatizzato. Allora Attilio, secondo te chi sono i principali fruitori di questi quotidiani gratuiti? Ma credo onestamente lo sono un po' tutti, tranne chi per principio li rifiuta, nel senso che ognuno, anche per semplice comodità o soprattutto per la gratuità del prodotto, ciò che è gratuito le persone lo prendono a costo di buttarlo un attimo dopo, e questo lo vediamo anche con i volantini pubblicitari o i volantini politici. Non esiste, a mio parere, un target ben preciso. Certo. Parlavamo appunto dei free papers nazionali, vengono distribuiti prevalentemente nelle grandi città. La diffusione nelle zone periferiche è in parte compensata dal fenomeno del pendolarismo. C'è un saggio di Codeluppi dove cita appunto i free papers come esempi della progressiva degenerazione commerciale del panorama mediatico, assimilandoli ad altre strategie pubblicitarie di facilitazione al consumo che sempre più accompagnano la vendita dei giornali come gadget, formule panino, eccetera. Il problema centrale non è solo e tanto quello della presenza sempre più massiccia della pubblicità, argomento tra l'altro non certo secondario, ma quanto questo tipo di informazione contribuisca alla formazione dell'informazione, ossia quanto vengano plasmate le capacità delle popolazioni nel percepire informazioni, notizie e nel filtrarle con adeguati strumenti di critica. Appunto, la critica nel sapere cosa si sta leggendo, che valore dare a quello che si apprende, come collocare queste notizie rispetto alla realtà quotidiana. Attilio, parlavamo qualche secondo fa di critica e di formazione all'informazione. Due domande. come la critica del fruitore, quindi di colui che prende tutti i giorni e che legge questi giornali, viene modificata, e che cosa vuol dire formazione all'informazione? Ma, più che modificare la propria critica, il quotidiano gratuito, ma lo stesso quotidiano maggiore che oggi è il quotidiano classico, che oggi è apertamente schierato in Italia, a parte il manifesto che porta comunque il sottotitolo di quotidiano comunista, quindi si schiera a livello teorico e ideologico, tutti i giornali appartengono a una delle due aree politiche, quantomeno le due aree dello spettacolo del parlamentare. Loro vengono incontro al tuo punto critico, a quello che ipoteticamente tu ti sei già formato secondo un senso comune, certo, per cui tu ti muovi, quindi vanno a costruire sul già sedimentato. Molto spesso questo sedimentato sono radici assolutamente irreali, e onestamente non credo che qualcuno si muova a seconda delle informazioni che riceve. C'è un esempio molto importante che è accaduto proprio nella vostra città, a Roma, è il famoso derby del bambino morto, dove l'informazione portata in diretta da parte dell'istituzione, in quel caso il prefetto di Roma, Achille Serra, non viene recepita non soltanto dalle due curve che ipoteticamente avevano messo in moto il meccanismo, ma da tutto lo stadio, a dimostrazione che il meccanismo di informazione funziona, di informazione, quindi di formazione innanzitutto dell'individuo, funziona solo nel momento in cui è un complesso di strumenti che agisce, che va dal lavoro salariato quotidiano, al cibo che si mangia, alla merce che si consuma. Certo. Sembra da un'indagine che le notizie locali, nazionali ed internazionali che compongono questi giornali gratuiti si leggono mediamente in 20 minuti. Ora ci chiediamo che tipo di utilità abbiano queste notizie rispetto alla vita reale e quotidiana delle persone. Evidentemente aumentati notevolmente i ritmi frenetici delle nostre vite, diminuisce per converso il tempo per le attività non monetizzabili, come appunto leggere, informarsi su quanto accade. E come suggerisce un articolo di Antonella Randazzo su disinformazione.it, l'opinione pubblica è fondamentale per la stabilità di un sistema, e nel nostro sistema viene formata attraverso il bombardamento mediatico appunto l'opinione pubblica. Attilio, allora ti volevamo fare un'ultima domanda. In un articolo comparso su appunto disinformazione.it di Antonella Randazzo si parla appunto proprio di una pioggia di informazioni. Volevo una tua opinione circa appunto questa nuova tecnica di riempire le popolazioni di una miriade di informazioni che di fatto servono soltanto poi a distogliere l'attenzione verso argomenti più seri. Che cosa ne pensi? Ma onestamente, sentendo anche il discorso tuo di un attimo fa riguardo alla velocità, no, alla brevità dell'informazione, io non credo che questo sia un punto fondamentale e saliente, nel senso che io credo ancora a forme di comunicazione come la scritta per strada, una frase anche uno slogan qualsiasi, morte ai padroni, in sé è una comunicazione semplice buttata lì, che significa poco o nulla, diventa un concetto fondante, se non fondamentale, nel momento in cui avvia un meccanismo di riflessione. Certo. Al contrario, invece, come dimostrano proprio la Free Press, che esce al mattino e alcuni escono al pomeriggio, con notizie apparentemente diverse, che poi molte volte chiaramente sono una marea di cazzate, cioè il cane alto 2 metri è messo vicino ai 600 arrestati di Copenaghen, chiaramente l'importante è la pioggia, appunto, il fatto che il lettore non si fermi a riflettere, ma abbia in continuazione qualcosa di nuovo da scoprire, e il concetto di originalità, di novità, che è ciò che permette la vita del capitalismo mercantile degli ultimi 20 anni. Certo. Guarda, chiudiamo con te proprio 2 battute. Dimmi 2 parole circa la prima impressione che hai le mattine, o quando vedi quella miriade di replicanti che hanno tutti lo stesso giornale, che leggono tutti la stessa cosa. 2 parole. Ma onestamente, anche se hanno in mano Libero, Repubblica, mi sembra che abbiano in mano la stessa cosa. Per quanto riguarda la Free Press, c'è soltanto quel briciolo di gioia fasulla che in quel momento quelle persone non abbiano dato direttamente dei soldi al sistema della carta stampata. Per il resto, la pena che si prova per gli altri e per se stessi, che si è in mezzo agli altri, è data da quel fattore come da tanti altri fattori. I loro stivali con 20 centimetri di tacco e 30 centimetri di punta portati in un ufficio lasciano lo stesso identico effetto di una notizia di 24 minuti piuttosto che di Leggo o di Metro. Credo che la situazione sia abbastanza generale, e non credo che sia soltanto l'ipotetico altro, ma ciò dipende anche da noi stessi e da ognuno di noi nei propri gesti quotidiani o nella propria organizzazione quotidiana. Ognuno cerca la novità e l'originalità in qualsiasi forma, anche in quelle apparentemente che contrastano di più il dominio. Attilio, ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo. Grazie a voi, in bocca al lupo e buon lavoro. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Alcune notizie assumono un certo rilievo, soprattutto quelle che evocano emozioni. Suscitare associazioni emotive e commozioni è diventato uno degli scopi principali dei media di oggi. I fatti di cronaca, specie se si tratta di delitti contro bambini, si prestano a questo scopo. Si tratta in un modo per distrarre l'attenzione pubblica da altri fatti assai più importanti per la vita dei cittadini. Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, diamo appuntamento alla prossima settimana, in cui chiuderemo questo ciclo di 2 puntate sull'informazione e sul potere dei nuovi media. Saluto a tutti. Ricordiamo a tutti coloro che ci volessero scrivere o mandare solo suggerimenti di farlo alla mail mediasetta@gmail.com.